Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Hai preso la valigetta con il telefono? No, pensavo la prendessi tu, scusa. Io ho già la borsa da tennis e il pacco dei libri. Ah, siamo a posto. Come pensi che possa prenderlo io? Le due valigie chi le porta? Vabbè, ho capito. Allora io ti aspetto qui, perché mica possiamo lasciare il telefono lì in auto. Tu vai, metti giù le valigie e poi torni indietro e prendi il telefono. Così mi dai anche una mano a portare la roba che ho io. Era proprio così che andavano le cose fino a qualche tempo fa, quando i cellulari che usiamo oggi si vedevano solo nei film di James Bond. Negli anni 70 del secolo scorso, la Motorola fu la prima azienda elettronica a commercializzare un telefono portatile. Era grande come una valigia 24 ore, di quelle abbastanza spesse, e pesava intorno ai 4 kg. Verso il 1983 apparve il DynaTAC 8000, sempre della Motorola. Costava, a cifre di oggi, circa 7000 euro. La sua batteria consentiva 60 minuti di conversazione e poi doveva restare in carica per 10 ore. Si può pensare che i costi di queste apparecchiature dipendessero dal fatto che erano poco diffusi, e in parte è così, ma solo in parte. La riduzione delle dimensioni ha significato meno materie prime impiegate, maggiore rapidità nelle procedure di montaggio delle apparecchiature e notevole riduzione dei costi di spedizione. Oggi attendiamo i cellulari da polso. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.